sei, seppure puntuale, diavolo. Guardati le scarpe, indovino che vuoi, hai fatto tanta strada fino a qui. Cavallo guarirò, prendi un'aspirina e calmati un po', sei pure divertente, diavolo. La mania di startene tra te e te, la paura di cadere, stasera al telegiornale dicono che sei letale. Posa le tue armi è ridicolo, ma guarda la tua faccia, diavolo. La maschera di vetro buttala via, sei meglio al naturale, bella mia. Togliti la benda e guardami un po', ti chiamo maledetta, diavolo. Nascondi quella falce, paura non ho, puoi fare marcia indietro che io ho la mania di starmene tra me e me, la paura di cadere, stasera al telegiornale dicono sono immortale. Startene tra te e me, la paura di cadere, stasera al telegiornale dicono sei punto.